in cui ci sono io, uno che chiama Saverio. Ah, ecco, e l'abbiamo sentito, fra l'altro. E poi tutti gli ascoltatori di Radio Città Fugico. Fantastico, che saranno almeno due forse oggi. Chissà se Gifo c'è, non ne ho la più pallida idea. Anche perché obiettivamente ho tutti i computer impegnati per fare questa videochiamata con te, ma perché in realtà bisogna raccontarlo agli ascoltatori che sì, io perdo il 50% di quello che dici, però comunque nostro tentativo è encomiabile. Tu vai sulla fiducia. Quante trasmissioni radiofoniche accettano di rischiare così la propria audience, la nostra già scarsissima, pur di esserci la nostra inesistente credibilità. No, dicevo che quello che abbiamo fatto oggi è appunto un tentativo di Skype per fare un tentativo di avere ospiti dal vivo, pur non potendoli avere dal vivo, perché il Covid ci impedisce tuttora di avere ospiti dal vivo, e dunque, siccome tu non sei qui dal vivo con me, ti ho usato come cavia per vedere se può funzionare questa cosa. Ma secondo te può funzionare? Ma guarda, secondo me c'è questa grossa incognita ancora da risolvere, cioè bisogna capire se la cosa è legata al campo scarso che ho io, oppure perché se è così forse l'ospite perde molti pezzi. Però secondo me vale la pena di fare un secondo tentativo, magari non so, magari con un ospite nostro amico, no? Qualche posto. Esatto, magari con un ospite nostro amico che può avere la pazienza di capire se si sente, ecco, se non si sente anche assolutamente, ecco. Più nulla. Ah, ecco, perfetto, per fortuna perché ci ascoltano in pochi. Invece io confido che si sentirà benissimo, perché sai, devi sapere che Skype decide lui il volume di quello che io ti sto trasmettendo a te. Sì, io ricucio tutto con molta immaginazione. Ottimo, tu ricuci tutto con noi. No, però ti volevo dire prima, perché poi fra un po' ti saluto, ma prima di salutarti ti volevo far sentire questo pezzo, perché la settimana scorsa abbiamo parlato della voce di Concetta Modica, che ti piaceva molto ed era simile alla voce di Ivana Spinelli, e questa settimana invece su Instagram, esatto, e su, forse l'hai visto, ma anche su Exibat è apparso questo video, anzi su Exibat TV, sul canale YouTube di Exibat TV, che è questo portale di arte contemporanea, è apparso questo video con la voce di Ivana Spinelli e la faccia invece di Veronica di Galleria Più, che abbiamo avuto qui come ospite, e te lo volevo far sentire, e lo volevo far sentire anche ai nostri ascoltatori, perché è un pezzo magnifico, per cui adesso se ne hai voglia continui ad ascoltarlo, altrimenti magari lo ascolti in differita poi più tardi, sempre su radiocittafugico.it. Allora, io direi così. Sì, lo ascolterò probabilmente in differita, perché, ma più che altro perché mi arriva una parola ogni quattro, quindi forse non renderebbe a giustizia il mio ascolto alla qualità della proposta. Però volevo sapere una cosa, ma dopo tu mi richiamerai per la parola finale o devo leggerla adesso tutta ad un fiato? Ti richiamo, cosa dici? No, dimmi tu, perché se questa cosa ti crea un documento, io ti posso poi leggerla tutta ad un fiato in questo momento, altrimenti ci sentiamo dopo, come vuoi tu, dimmi tu. No, facciamo che mi richiami, però diamoci un'ora precisa, così nel frattempo io faccio anche un bel bagno. Ah, fantastico. Vabbè, dunque adesso sono le 19:12, io ti do 30 minuti precisi, per cui ti richiamo alle 19:42. Va bene? Perfetto. Adesso. Ecco, adesso ti abbiamo persa, per cui. No, no, ma io ti sento ancora. Comunque, okay. Perfetto. Ti do conferma: tra 30 minuti saranno le 19:43. Esatto. Alle 19:43, spaccati, noi ci risentiamo, così mi dici la parola di oggi. E intanto io ti faccio sentire, per quello che potrai ascoltare, ti faccio sentire questo intervento che non so bene, aveva anche un titolo, però adesso non lo riesco a vedere perché ci sei tu sul mio schermo, e dunque Ivana Spinelli che parla, non lo so che cos'è, è un intervento video sonoro, sentilo. Ci proviamo. Ma davvero non si può vivere senza lavorare? Tutta la vita che lavoro tanto per poter poi fare almeno fare il meno possibile. Ti faccio tutte quelle domande per minimo, ma fare il meno possibile. Fare il meno possibile. La relazione tra trascendenza e sussistenza, linguaggio corpo e capitale, tra produzione estetica. Quando ti chiedevo il rapporto tra lavoro e tempo libero senza lavorare, come parlare dell'essere umano, poi ti fanno le altre domande, che cos'è il lavoro oggi, ha a che fare con il piacere o il piacevole o con il sacrificio e l'autosfruttamento, che tipo di tutele o che grado di indipendenza vorresti nel tuo lavoro. Sentito parlare della gig economy? Vuoi un lavoro? Un lavoretto. Che lavoro fai o vorresti fare? È lavoro anche quello fatto attraverso smartphone e app. È lavoro anche con i social. Quanto valgono i nostri tempo, i nostri dati? Chi cosa li valorizza? Possiamo scegliere quando donarli? Quanto valgono le tue facoltà fisiche e intellettuali? Qual è il limite, l'orario, la quantità di vita che possiamo destinare allo scopo della produzione? Chiunque ha accesso al lavoro? Lavorare costa? Quanto bisogna investire in se stessi per poi lavorare? Cos'è la soglia di povertà? Qual è secondo te il confine tra vita minimamente accettabile e povertà assoluta? Ti senti isolata, parte di una comunità? Il rapporto lavoro-vita può contribuire alla crescita individuale e relazionale della persona e di tutti gli esseri viventi, animali, vegetali, virtuali, di una comunità? Se sì, come? Il concetto di crisi influisce sull'accettazione dell'aumento delle disparità? Che tipo di mondo possiamo immaginare? Eccolo, questo si chiamava Chiedi a me, ecco, non mi veniva il titolo, ed era una collaborazione, è un video che troverete, da domani troverete su www.coxospaziale.blogspot.com, troverete il link all'Instagram e al canale YouTube di Exibart, appunto, in cui appunto Galleria Più e Ivana Spinelli hanno pubblicato questo lavoro, che ha un sacco, come avete sentito, un sacco di domande, e anche un sacco di domande non solo rispetto all'essere artista, ma anche alla creatività in generale, ovvero anche alla creatività che noi mettiamo, no, nei social network. Quanto vale il lavoro che noi facciamo gratuitamente per i social network? Mi scuso per la musica di sottofondo che sentite qui, ma perché oggi ho avuto sono arrivato un po' in ritardo, per cui non sono riuscito, e tutti i computer erano spenti naturalmente negli studi di Radio Città Fujiko, e anzi forse era qualche giorno che nessuno veniva qui, per cui ho dovuto riavviare metà delle cose che di solito sono già accese, e dunque ho al volo ho messo The Best of Vanessa May come sottofondo, che è quello che sentite, un po' così romantico. Mentre invece quello che oggi vi volevo raccontare assolutamente è che è uscito un nuovo singolo di Jenny Owen Youngs, che forse non la conoscerete, ma io sono un grande fan di lei, questa cantautrice americana del New Jersey che ultimamente si è trasferita a Los Angeles, e niente, ogni tanto sforna qualche singolo, qualche disco. Vi volevo far sentire appunto questo pezzo che è uscito ieri l'altro, il 7 agosto, e si intitola Follow You. Così intanto magari vado a mettere a posto un po' i volumi e vedere di capire cosa succede nella console di Radio Città Fujiko. Genuine Youngs, Follow You. Che fantastica voce, Jenny Owen Youngs. Salve a tutti, sono Pino Boresta e sto ascoltando Coxo Spaziale. Pino Boresta, fantastico. E dicevo, che meravigliosa voce quella di Jenny Owen Youngs. Follow You si chiama il pezzo ed è appena uscito, lo potete comprare su Bandcamp. Da domani trovate il link su www.coxospaziale.blogspot.com. mentre invece scrive ieri Miltos Manetas, fra parentesi 333 180 94 94, oggi sono solo io, Stefano W. Pasquini, in studio, ma se mi volete scrivere potete scrivere con SMS, WhatsApp e Telegram al 333 180 94 94. Ciao Claudia Basso, che sei lì che ci ascolti. Allora, dicevamo, Miltos Manetas, questo artista greco che vive a Bogotà, scriveva ieri 485 giorni in prigione. Julian Assange, 8 agosto 2020. Ricordiamolo appunto che sì, Patrick Zaki sono 3-4 mesi che è in prigione, ma non dimentichiamoci che Julian Assange è in prigione da più di un anno, anzi nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, che è in cui praticamente viene praticata la tortura, perché rimanere in cella di isolamento 23 ore su 24 non si può non chiamarla tortura. Detto questo, appunto, Miltos Manetas ha fatto un fantastico lavoro di ritrattura di Julian Assange. Ogni giorno, per tutti i giorni della sua prigionia, Miltos dipinge un ritratto di Julian Assange, proprio a sottolineare la quantità di giorni, appunto 486 oggi, in cui lui è prigioniero. Cosa vi facciamo ascoltare adesso invece? Vi facciamo ascoltare 19:25, vi facciamo ascoltare un pezzo di Haru Suzuki. Non so se ve la ricordate, un paio di anni fa, se non sbaglio, l'avevo intervistata a Torino. È una suonatrice di ukulele e cantante fantastica. Lei è mezza cinese, mezza giapponese, e anche lei è uscita con questo non è un nuovo singolo, perché lei è tornata in Cina e suona con una band che, se non sbaglio, si chiama Fate. No, forse mi sbaglio. Ma appunto ha pubblicato sui social ieri l'altro, poco tempo fa, questo gran pezzo che adesso vi faccio ascoltare, che si chiama Stay Night, ma è in cinese, per cui chi lo sa. Ocurrió un ajo a mi tu. Ciao, siamo le Linkingers e questo è Coxo Spaziale. L'angolo della menzione. Ed eccoci qua, ritornati in studio dopo le pubblicità delle 19.30 e appunto, come al solito, ci vuole l'angolo della menzione. E menzioniamo una cosa che succede stasera alle 21.15, che è stasera, è la notte di San Lorenzo. Non ci avevo pensato, auguri a tutti i Lorenzi, ed è una serata di poesia e teatro a cura di Niva Lorenzini, intitolato Dispersi, un ponte di poesia tra Bologna e Palermo. Come da tradizione, leggo dal comunicato stampa, sarà la parola della poesia a segnare lunedì 10 agosto 2020, nella notte delle stelle cadenti, l'approdo finale della rassegna di eventi culturali attorno al museo voluto dall'Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica, per trasmettere la memoria viva e rinnovare la richiesta di verità e giustizia attraverso i differenti linguaggi dell'arte. In occasione del 40° anniversario della strage, questo momento di alto ed emozionante impegno civile si declina in un'inedita veste scenica con l'evento di teatro e poesia Dispersi, un ponte di poesia tra Bologna e Palermo, a cura di Niva Lorenzini, che unirà idealmente in un'unica trama lirica le due città che il volo dell'aereo 19 Itavie, decollato da Bologna il 27 giugno 1980 alla volta di Palermo e precipitato al largo di Ustica con a bordo 81 passeggeri, avrebbe dovuto collegare. La serata vuole essere nello stesso tempo simbolicamente un omaggio ai tanti dispersi nel Mar Mediterraneo. Alle ore 21.15, dunque, proprio quando poco dopo la fine di Coxo Spaziale, abbiamo al Parco della Zucca in via di Saliceto 3/22 Cantieri Meticci, regia di Piero Floridia, con la partecipazione di Virginio Merola, sindaco di Bologna, Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, e Daria Bonfietti, presidente Associazione delle Parenti delle Vittime della strage di Ustica. Mentre alle ore 22 a Palermo, alloggiato di San Bartolomeo in via Vittorio Emanuele 25, abbiamo Serena Barone, Esther Cucinotti, Maria Cucinotti, Rosario Parazzolo, Sabrina Petix, Stefano Randisi ed Ezio Vetrano, con la regia di Stefano Randisi ed Ezio Vetrano. Naturalmente avremo la partecipazione di Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo, e con la Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo. Per chi di voi, che probabilmente non siete pochi, non riuscirete a essere né a Bologna né a Palermo, potete andare sul sito www.attornoalmuseo.it e appunto lì troverete la diretta di entrambi gli spettacoli. Chi invece di voi sta a Bologna, potete andare al Parco della Zucca alle 21.15. Mentre invece domani alle 21, infatti incredibilmente, cioè a metà agosto, comunque continuano a succedere un sacco di cose, soprattutto organizzate dal Comune di Bologna, devo dire, martedì 10 agosto alle ore 21 abbiamo Snodi, Festival di Musiche Inconsuete, nona edizione, che appunto si succede dal 28 luglio al 15 settembre. Domani appunto abbiamo alle ore 21 il concerto di Yulde Sonos. Dice il comunicato stampa: la nona edizione di Snodi, Festival di Musica Inconsueta, organizzata dal Museo Internazionale Biblioteca della Musica di Bologna, prosegue con il terzo appuntamento domani, martedì 11 agosto alle ore 21, con il concerto di Yulde Sonos, solstizio di suono, che ci porta alla scoperta della tradizione musicale della Sardegna. Ok, allora forse si pronuncia Yule. Il progetto trae la sua origine dai suoni della terra sarda, con un programma originale che intreccia tradizione e innovazione, unione tra passato e presente in una tessitura che guarda con rispetto alle memorie più antiche dell'isola. Il repertorio del gruppo attinge ai balli tradizionali della regione, contaminandosi, congiungendosi, fondendosi con altre sonorità mediterranee e influssi della world music, per spingersi fino alla sperimentazione elettronica. Il biglietto è di 10 euro e ridotto a 8, e se volete maggiori informazioni per il concerto di domani andate su www.museibologna.it/musica. E invece, continuiamo a raccontarvi cose che ci arrivano per email. In questo caso abbiamo la nostra fantastica Francesca Grispello di Simpress 44, che sempre ci manda della musica che poi noi con estrema gioia ascoltiamo qui a Coxo Spaziale, l'altro giorno, due o tre giorni fa, mi ha spedito un pezzo di Bobby Solo e io ho detto: cavoli, Bobby Solo, Bobby Solo, Bobby Solo, Bobby Solo. Chi non conosce Una lacrima sul viso di Bobby Solo? Bobby Solo naturalmente è sempre stato un maniaco del rock and roll, e questo lo sapevo perché ne parlava anche Alberto Camerini, che invece abbiamo intervistato tipo 3 o 4 anni fa qui a Coxo Spaziale. E Bobby Solo è uscito con un nuovo singolo, anche lui, che adesso ci apprestiamo ad ascoltare, che è un tributo a Tony Joe White. Tony Joe White, dice Bobby Solo, era un musicista e autore della Louisiana, ispirato da Ode to Billy Joe di Bobby Gentry. Innamoratosi del blues, collaborò anche con il grande Lightning Hopkins. Le sue Polk Salad Annie e I've Got a Thing About You Baby furono cantate da Elvis, e negli anni 80 scrisse Steamy Windows per Tina Turner, che vendette milioni di copie. Quando Tina sentì la voce era convinta che fosse di una persona di colore. Io ebbi l'onore di conoscerlo e di presentarlo al Festival di Mendrisio una decina d'anni fa. Fu emozionante e dialogammo molto. Sono felice di aver onorato la sua musica. Consiglio di recuperare il video di Tony con i Foo Fighters al David Letterman Show. Questo è quello che scrive Bobby Solo nella presentazione di questo pezzo, che appunto onora Tony Joe White, che è scomparso il 28 ottobre 2018. Bobby Solo intanto non cessa mai di stupirci e appunto registra questo pezzo e pubblica questo appassionato tributo da parte del rocker nostrano a As the Crow Flies, uno dei brani di punta di The Train I'm On, un album del 72 prodotto da Muscle Shoals, da Wexler e Dowd. Il singolo anticipa l'EP di 4 brani che uscirà a settembre, sia su vinile che su CD, prodotto da Christopher Bacco dello studio 2 di Padova e realizzato in vecchio stile, con basso, batteria, chitarra e voce registrate in presa diretta, con tanto spirito live. E dunque ascoltiamoci questo As the Crow Flies di Bobby Solo. Sentite qua che blues. As the crow flies, baby, will I end so far from you? As the crow flies, baby, will I end so far from you? But since I don't have wings, I can get home as fast as I want to. Flies, baby, will I end so far from you? As the crow flies, baby, will I end so far from you? Since I don't have wings, I can get home as fast as I want to. Call my name. Well, I took it as an omen. very first. Make my very best. As the crow flies, baby, when I am so far from you. As the crow flies, baby, when I am so far from you. But since I don't have wings, home as fast as I want to. As the crow flies, baby, crow flies, baby. As the crow flies, baby, as the crow flies, baby. Così mi finisce senza il suono di Skype che mi dice telefoniamo a Chiara. Eccola, chissà se ci sente. Sì, io ti sento. Tu mi senti? Non sento assolutamente. Ah, ecco, fantastico. Non sento assolutamente niente. No, tu mi senti? Effettivamente ti sentiamo un po' a scatti. È il tipico nostro tempo. Esatto. No, in realtà ti sentiamo, cioè io ti sento, non so se i nostri ascoltatori riescono a sentirci anche loro, chi lo sa? Questo lo dovremmo chiedere a Gifo, è l'unica, io conto su di lui soprattutto per queste cose tecniche. Esatto. Ho sentito. Ecco, adesso ti abbiamo persa un altro po', ma tu ci devi leggere qualcosa, giusto? Ah, cavoli, mi dice addirittura reconnecting. Bene, vado di fiducia allora. Vai di fiducia. Spero che qualcuno mi stia sentendo. Ti stiamo sentendo. Non ne sono molto sicura. Vuoi darmi un cenno di conferma? Ti do un cenno di conferma, ti sentiamo. Però poi tu non mi senti, per cui... Ah, ecco. Confermo, aspettate che lo scrivo. Confermo. Diciamo che io avrei una cosa da leggere e provo a leggerla, però forse non verrà benissimo, allora la tengo breve, facciamo così, la tengo breve e poi magari ci torniamo sopra un'altra volta. Facciamo così. Siccome sono in un posto in cui c'è obiettivamente un colore meraviglioso, volevo parlare di colore di Alessandra Zagni. Ok. Alessandra Zagni dice: il colore è il bignami della vita. Mi sembrava che questo riferimento al bignami fosse interessante, perché era un po' che non sentivo parlare del bignami. Magari chiederemo in un'altra occasione meglio ad Alessandra Zagni che cosa intendeva dire. Hai finito così? Tu non mi senti, per cui no. È fantastico. E va bene, allora il colore è il bignami della vita. Noi ci fidiamo e basta. E poi ti salutiamo così, perché cos'altro possiamo fare? Tu non ci senti. E questa era Chiara Pergola e questo è sempre Coxo Spaziale. Ciao, siamo le Linkingers e questo è Coxo Spaziale. Perché parte quello? L'angolo, no, non doveva partire questo. È partito lo stesso. Il, il mixer mi fa così, mi fa ste robe così. Bene, dunque, sono le 19:47 e la trasmissione sta per finire. Ecco, Chiara mi chiede se si è sentito qualcosa. Io rispondo sì. È a posto così, amici come prima, e dunque non scopriremo mai se funzionerà fare le interviste via Skype utilizzando, cioè facendo passare tutto l'esterno del computer dentro al mixer e poi l'esterno della radio dentro al computer di nuovo, di modo che ci sia questo ritorno. Non lo scopriremo mai, direi. Cosa possiamo fare dunque? Niente. Gifo non si è sentito, io ho finito le menzioni e ascoltiamoci un pezzo di Morrissey. In the reservoir, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our street. Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Never been in love until you've seen sunlight thrown over smashed human bones. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sun. Very rich and the very poor, and he stole all hearts away. He stole all hearts away. He stole all hearts away. Ha fatto un gran pezzo questo. L'ho scelto completamente a caso. Chissà se la settimana prossima poi Chiara sarà di nuovo con noi. Mi sono dimenticato di chiederglielo, magari poi glielo chiediamo più tardi. E questo è sempre Coxo Spaziale. Creatività generica. Ed ebbene sì, ci occupiamo di creatività generica. E che dire, e niente, la puntata praticamente è finita, è stato bello farla dal vivo, malgrado queste stranezze tecniche, e dunque, a parte questo messaggio subliminale, No, non c'è niente di subliminale. Questa è sempre Vanessa May che suona i classici della musica classica. Comunque devo dire che il mixer oggi mi lascia un po' sorpreso, tipo che in questo momento il CD è tutto al massimo, però non si sente come si dovrebbe sentire. Ma sarò io che ho sempre, tutte le volte che esco, non avendo memoria, cioè memoria breve, tutte le volte che esco da questo studio mi dimentico tutto quanto di come si fa un programma radio, e del resto non sarebbe Coxo Spaziale se così non fosse. E dunque io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, e come al solito vi salutiamo con il fantastico remark del nostro direttore, che salutiamo. Si spera che sia in vacanza anche lui, chi lo sa. Lo scopriremo domattina ascoltando Radio Città Fujiko, e magari non sentendo lui che ci fa il coso dei giornali. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. This is a piece called Cambridge 1969. Che fra l'altro la sigla è un pezzo di Yoko Ono del 2007. Spaventoso, lo dedichiamo tutto completamente a Giffo, un pezzo spaventoso. Coxo Spaziale, ci sentiamo di nuovo lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20, sempre su Radio Città Fujiko. Ciao. Anche Chiara Perdola, che è stata con noi via Skype con un cellulare da un posto remoto, ma siamo comunque riusciti ad ascoltare le sue parole, e l'aspettiamo la settimana prossima. Questo era Coxo Spaziale. Buon martedì. pezzo dei giornali era la rassegna stampa, giustamente mi bacchetta Chiara. Ciao.